ora che sei termoautonomo, è la tua tessera sanitaria magnetica. Nel portafoglio diranno che eri un gran lavoratore, se aspetti giorni di riposo per curare il raffreddore. Ma le gomme da neve non bastano e i selfie non ti salveranno dall'ipertensione. Cambia il tempo, cambia la stagione. E la professoressa di musica con la R moscia e l'aria tremendamente seria, guardando me cance, disse: voi due accontentatevi di suonare i citofoni. A noi che eravamo già abituati a perdere non fece alcun effetto, ci sembrava solo un altro scherzo, lei come tutto il resto dell'universo. Sole d'inverno sanguina dentro, va giù per le grondaie il ghiaccio dal tetto, liquido amniotico che scioglie la pelle, ogni faccia